GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Tragedia preposto nella frazione di Cialla, è morta schiacciata da un albero durante un sopralluogo dopo un incendio. Elena Loduca, 55 anni, coordinatrice di zona della protezione civile. Il fronte degli incendi in Carso, situazione monitorata costantemente, preoccupa il versante sloveno. In Friuli ancora isolata Resia, ma entro oggi la protezione civile creerà un bypass fiamme a Resiutta, Canadei, Rinazione. Riaperti l'autostrada A4 e il raccordo autostradale in direzione Venezia, lavori in corso sulla linea ferroviaria tra Trieste e Monfalcone, potrebbe riaprire in giornata. La qualità dell'aria peggiora in tutte le aree raggiunte dal fumo degli incendi, obbligo di mascherine in diversi comuni dell'Isontino, FFP2 consigliate anche a Trieste. Crisi Varzila, Trieste è il presidio di protesta, i più giovani temono la scomparsa di un punto di riferimento storico, tra i lavoratori anche il vescovo Crepaldi che invita all'unità e ci sono anche i casi Flex e Principe. Il governo è caduto, si torna al voto il 25 settembre, in Friuli Venezia Giulia verranno eletti 12 rappresentanti, 8 in meno rispetto alle ultime elezioni, è l'effetto del taglio dei parlamentari. Una donna di 79 anni è stata zannata dal proprio cane, operata d'urgenza e fuori pericolo, è accaduto a Malnisio di Montereale Valcellina, alla base della reazione dell'animale forse un gesto improvviso. Gli imprevisti sono la nostra nuova normalità, inizia questa sera Mittelfest con 28 spettacoli fino al 31 luglio per provare a dare una risposta a questa domanda. La nostra intervista al direttore artistico Giacomo Pedini. Sono le 7.19 di venerdì 22 luglio, buongiorno da Francesca Terranova e Andrea Covre in studio per questa prima edizione del giornale radio regionale. Diamo un'occhiata al tempo in apertura, il cielo è sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 24,5 gradi, mare calmo con temperatura di 26,5 gradi. A Pordenone 20,5 gradi, Udine e Gorizia 20, a Tolmezzo 21,5 gradi, Forni di Sopra 17,5 gradi, Piancavallo e Tarvisio 14,5 gradi, Sappada 13, Monte Zoncolan 17,5 gradi, Monte Lussari 15,5 gradi. Tornando sulla costa, a Lignano 26,5 gradi, a Grado 24,5 gradi, temperatura del mare di 25,5 gradi. Le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, oggi cielo in prevalenza sereno, farà molto caldo, venti a regime di brezza, al pomeriggio sulla zona montana, specie sui settori più interni, sarà possibile cielo poco nuvoloso. Ora le notizie, partiamo dalla morte di una volontaria antincendio che era impegnata nelle operazioni di spegnimento, la tragedia è accaduta ieri a Prepotto nella frazione di Cialla dove Elena Loduca, 56 anni, udinese, coordinatrice della protezione civile della zona, è rimasta schiacciata da un albero. Oggi avrebbe dovuto essere sul Carso per dare una mano ai colleghi sul fronte più impegnativo, ma è stata uccisa sul colpo da un albero venuto giù all'improvviso, una acacia minata dalle fiamme dopo un breve incendio a Cialla di Prepotto. Elena Loduca, 56 anni, da tempo era coordinatrice della protezione civile in quel comune. Stava svolgendo un sopralluogo poche ore dopo che un focolaio aveva mandato in fumo una piccola area fra il ciglio della strada e la prima parte di un boschetto. Un incendio, il secondo in poche ore in quella zona, che era stato spento tempestivamente e che ora richiedeva una bonifica per essere certi che non ripartisse. Elena Loduca, dicono i colleghi, era scrupolosa come nel suo lavoro di poliziotta, assistente capo al commissariato di Cividale. L'anno scorso era diventata cavaliere per il suo doppio impegno a favore della comunità. Una perdita gravissima, dice il coordinatore della protezione civile di Monfalcone, Andrea Olivetti, che l'aveva sentita solo il giorno prima. Una chiamata diretta, naturalmente, perché c'è un certo rapporto, c'è un rapporto di amicizia, che con una persona, una gran persona, una volontaria, una coordinatrice di una comunità più piccola di Monfalcone, ma che assieme ad Elena si stava lavorando a progetti molto più grandi, una grande persona, una grande perdita per la famiglia della protezione civile, la persona, un'amica e poi soprattutto una forza interiore che si è sempre messa a disposizione della comunità. Giampaolo Mauro, TGR Friuli Venezia Giulia. Il più profondo cordoglio e la commossa vicinanza alla famiglia di Elena Loduca è stato espresso dalla ministra dell'Interno Lamorgese, cordoglio espresso anche dal prefetto Laura Lega, capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, così come dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Secondo il capo della Polizia Giannini, quello di Elena sarà sempre un esempio per tutti. Un esempio per tutti noi, conferma il segretario di Stato Franco Gabrielli, già capo della Protezione Civile. Cordoglio e massima vicinanza ai familiari sono stati espressi dal governatore Fedriga, dal vice Riccardi e dal presidente del Consiglio regionale Zanin. Un compito difficile e rischioso quello dei volontari della Protezione Civile come Elena Loduca, impegnati in queste ore nella lotta contro il fuoco in tutta la regione. Sul Carso i volontari sono al lavoro da martedì, grande il loro impegno per difendere dalle fiamme le case di Sablici e Iamiano. Un'attività difficile e preziosa quella del volontario di Protezione Civile, soprattutto quando si ha a che fare col fuoco. Sono stati anche loro, insieme a vigili e corpo forestale regionale, a proteggere le case di Sablici martedì notte e di Iamiano in quella successiva. Tra di loro Walter, che dorme 2 ore da qualche notte. Di giorno gestisce un bar, quando è buio spegne incendi in bosco. Ore in cui non ci può essere supporto aereo. La notte ci sono le condizioni più rischiose. Sì, perché non vedi dove cammini, ci sono tanti pericoli come buche, anche tante bombe inesplose che ogni tanto si sente il suono, il botto e non vedi dove scappare o dove anche ti trovi in quel momento. Proprio nella notte un volontario della zona si è ferito alla schiena cadendo in una piccola grotta nei giorni scorsi. Bisogna seguire un corso specifico per diventare operatore AIBA, acronimo di antincendio boschivo. Solo a Doberdo del Lago sono una quarantina e stanno supportando il lavoro dei professionisti. È appena ritornato un loro mezzo dalla manutenzione, subito pronto per essere utilizzato. È diretto sul fronte del fuoco, sul Monte De Beli, come da disposizione dell'OS, di conseguenza del nostro coordinatore di Doberdo del Lago, insomma. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sul Carso l'incendio è in espansione verso la Slovenia, mentre in Italia è abbastanza sotto controllo la situazione. Diversi focolai bassi, ma tutto è migliore di ieri. Ancora presente tanto fumo, l'autostrada è aperta. Quanto alla rete elettrica, questa notte è andata in funzione la linea Terna che ha controalimentato Trieste. Durante il giorno verrà disalimentata per consentire il sorvolo dei mezzi aerei. Restano circa 300 le persone sfollate, in particolare da Iamiano. Iamiano ci aggiorna su come è andata la notte l'ingegnere Matteo Carretto, numero 2 della Direzione Regionale Vigili del Fuoco. Anche per questa notte l'incendio in condizioni di bassa ventosità ha rallentato il suo movimento. Situazione buona perché con un sorvolo notturno di elicottero abbiamo praticamente visto che, per quanto in effetti sì, ci sia ancora presenza di fuoco, non si vedessero proprio veri e propri fronti di fiamma. Questo non vuol dire chiaramente che l'incendio si è spento, però in ogni caso vuol dire che la situazione per questa notte è stata migliorativa. Probabilmente ancora qualche giorno riusciremo a portare a termine lo spegnimento. Resta preoccupante il fronte sul lato sloveno? No, non ci sono situazioni di particolare preoccupazione da questo punto di vista. Quello che diciamo va tenuto molto d'occhio è la situazione in corrispondenza alla località slovena di Merna, perché potrebbe venire a costituire una minaccia per la località Rupa. La situazione dei collegamenti riaperti anche in direzione Venezia, il raccordo autostradale e il tratto di A4 che hanno rimasti interrotti tra Sistiana e Re di Puglia. C'è però grande cautela ed è stato predisposto un servizio di pronto intervento in caso di un nuovo avvicinamento delle fiamme che determinerebbe una nuova chiusura. Ancora chiusa invece la strada del Vallone nel tratto interessato dagli incendi. Più complicata la situazione sulla linea ferroviaria tra Trieste e Monfalcone, soprattutto per i danni causati dall'incendio alla linea. I tecnici delle ferrovie hanno iniziato gli interventi nel corso della notte e contano di poter riattivare la linea in mattinata. Brucia anche il Friuli su più fronti, partiamo da quello di Resiuta, ci aggiorna su come è andata la notte Valmore Venturini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine. Siamo presenti nel comune di Resiuta, quella è la situazione più preoccupante, abbiamo una squadra sul posto, durante la notte non c'è stato vento per cui la situazione fino adesso era sotto controllo, ci sono 3 fronti, 3 lingue di fuoco, una non preoccupa, le altre 2 sì. quindi la situazione chiaramente potrebbe evolversi qualora dovesse alzarsi il vento. Da pochi minuti sono decollati due Canadair dall'aeroporto di Ronchi e si stanno dirigendo sul posto, quindi non ci saranno gli elicotteri ma ci saranno i Canadair che opereranno in quella zona oggi. Preoccupa l'incendio a Resia, 15 km in linea d'aria da Resiuta, che si è espanso molto, che si sta avvicinando alla località Stavoli. Su Resia operativi due elicotteri, segnalati altri due incendi minori a Savogna e Cialla di Prepotto. La Protezione Civile regionale ha avviato i lavori per creare entro oggi un bypass lungo il torrente Resia, in modo da permettere il transito alle comunità locali, una via alternativa di circa 1,5 km già utilizzata in passato. A più di 24 ore dalla prima scintilla, lungo la provinciale 42, che collega Resiuta a Resia, sulla strada non smettono di piovere sassi e il fronte delle fiamme è raddoppiato, ma soprattutto la Val Resia è sempre isolata. Sul greto del torrente, l'elicottero della Protezione Civile carica 1.000 litri alla volta, un giro ogni 2 minuti, senza fermarsi. Poco distante, una ruspa prepara il sentiero alternativo che permetterà di bypassare la strada inagibile dalle prossime ore. C'è una strategia per mettere in sicurezza l'altro versante del monte Staulizze ed evitare che le fiamme minaccino anche la Ponte Bana verso Tarvisio. Silvio Franz, vicecomandante della stazione forestale di Moggio Udinese. Ripristinare una pista forestale che abbiamo parallela alla Ponte Bana stessa, un po' più alta, e da lì cercare di bloccarlo in quel punto lì. Il fronte si è esteso sul monte Chichi, incombe su Resiuta e minaccia le seconde case di Ruschis. Salva per il momento l'antenna Rai. Salendo a Resia incontriamo il sindaco Anna Micelli. Un altro incendio simile nel 2003, cosa è cambiato rispetto ad allora? Poco in termini di sicurezza sulla viabilità in realtà, perché noi abbiamo un'unica via d'accesso, che questa è la principale, l'altra che è a 1.000 metri ha grossi problemi di manutenzione come tutte le strade di montagna. A Prato e nelle varie frazioni la colonna di fumo si vede in lontananza. Al torrente residenti e turisti rimasti bloccati cercano refrigerio. Si sta bene, ma è un caldo anomalo e quindi a mollo. Un operaio della cartiera di Tolmezzo non è andato al lavoro. Abbiamo il permesso per stare a casa, in poche parole. Il sindaco ha detto che ci darà lei insomma una carta per stare a casa. Va a momenti, dipende dal vento che tira, insomma. No? È un'attività adesso che sì, quella turistica fondamentale per le nostre attività. Il fatto di avere la strada da chiusa vuol dire chiudere praticamente tutto. Resia, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'incendio ha provocato l'innalzamento delle polveri sottili, facendo segnare un peggioramento della qualità dell'aria in tutte le zone raggiunte dal fumo. In diversi comuni dell'Isontino prorogato l'obbligo di FFP2 anche all'aperto. A Trieste il comune invita la cittadinanza a indossare all'aperto la FFP2, rimanere in casa se possibile con le finestre chiuse e tenere al chiuso per quanto possibile anche gli animali domestici. Immediate le ripercussioni nel settore turistico, con richieste di informazioni e anche disdette a Trieste e Grado. I valori più alti di PM10 in giornata erano stati registrati a Ronchi, una concentrazione di 347 microgrammi per metro cubo di polveri inquinanti, oltre 6 volte sopra il limite stabilito a 50, conseguenza degli incendi che hanno colpito il Carso. Valori alti un po' in tutto l'Isontino in mattinata. E così nei comuni di Ronchi, Monfalcone, Staranzano, Dobertò del Lago è stato prorogato l'obbligo di indossare mascherine FFP2 all'aperto. Ordinanza in vigore anche a Duino Aurisina, fino a cessate esigenze, FFP2 consigliate invece a Sagrado. Nel pomeriggio si era registrata anche un'elevata concentrazione di PM10 a Grado, dove ieri il fumo proveniente dal Carso era molto visibile. Stamattina poi il vento buttava proprio tutto sulla spiaggia, abbiamo dovuto rientrare a usare FP2. Era pesantuccio, si pizzicava in gola, sì, sentivo spesso tossire. Siamo arrivati tardi, anche a mezzogiorno siamo arrivati, ma poi abbiamo detto no, mascherina e passeggiata. I valori sono costantemente monitorati dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Nel corso della giornata si è poi verificato un miglioramento a Monfalcone e un peggioramento a Trieste. Mentre a Udine e Tolmezzo i valori sono sempre rimasti sotto la media. Ma cosa è necessario affinché si allontanino le particelle inquinanti? A rispondere è Stefania Delfrate, dirigente ambientale dell'ARPA. Serve una condizione meteorologica favorevole, quindi delle brezze che portino lavino insomma in qualche modo l'atmosfera, e sicuramente quello che purtroppo è successo durante la notte scorsa, non deve esserci un'inversione termica che mantiene i fumi a livello degli bassi strati. Per questo abbiamo sentito un forte odore di fumo in tutta la pianura, ed è dovuto a questa condizione meteorologica particolare. E della situazione possibile per domani spiega il previsore dell'ARPA Sergio Nordio: venti moderati che aiutano a portare via i fumi e a migliorare la qualità dell'aria. Grado, Ludovico Fontana, TGR Friuli Venezia Giulia. Perché sono scoppiati questi incendi? I vigili del fuoco smentiscono categoricamente il ritrovamento di inneschi messi da qualche piromane. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incendio che brucia il Carso Goriziano potrebbe esserci la classica piccola scintilla prodotta dalla frenata di un treno, una situazione che si è già verificata in passato sulla tratta Monfalcone-Trieste. Questa volta però il terreno è particolarmente secco e c'è stato vento di borino. Questo avrebbe portato al disastro. Tutto sarebbe partito dall'incendio di martedì nell'area adiacente la linea ferroviaria vicino al casello dell'Isert, che ha portato a quattro roghi in rapida successione: quello di Sablici, che in linea d'aria è a 300 metri sopra l'Isert, e poco dopo a Medeazza, arrivando poi a Iamiano, distante appena 3 chilometri in linea d'aria. Sentiamo l'intervista al segretario regionale del sindacato autonomo dei vigili del fuoco, Damian Nacini. Dal mese di maggio circa sì, abbiamo delle precipitazioni su qualche parte della regione, ma questo non fa sì per che ci porti quella pioggia voluta. Vediamo comunque che c'è siccità dappertutto, il caldo di questi giorni e degli altri giorni non aiuta. Però sappiamo che l'autocombustione non esiste praticamente, quindi non ha preso fuoco da solo questo bosco, qualcosa in qualche modo forse l'uomo ha contribuito? Questo sicuramente saranno le autorità, diciamo, a verificare cosa è accaduto, ecco. C'è un problema di numeri, ci sono pochi vigili del fuoco, è così? Sì, abbiamo questo problema che noi lo denunciamo già da parecchio tempo come sindacato. In regione abbiamo in questo momento una carenza di circa 200 unità. Che oggi come oggi farebbero molto comodo. Non solo in questo periodo, ma in tutto l'anno, 365 giorni all'anno. Chiudiamo questa pagina dedicata agli incendi, che aggiorneremo costantemente nel corso delle nostre edizioni di giornali radio e telegiornali. Passiamo al mondo del lavoro. A Trieste, davanti alla sede della prefettura, ieri si è tenuta la manifestazione con presidio dei lavoratori della Varsila, che ha annunciato tagli per 450 posti. Solidarietà dei lavoratori delle altre aziende e anche del vescovo Crepaldi, annunciata la possibilità del ricorso a uno sciopero generale, e la crisi di governo non aiuta. Una decisione improvvisa da parte della direzione dell'azienda che penalizza la nostra città, che ha bisogno delle fabbriche e dell'industria per poter vivere e continuare a vivere. Il timore che per l'industria triestina possa essere un colpo di grazia è diffuso tra i 2000 di Piazza Unità, dipendenti, sindacalisti, lavoratori metalmeccanici di altre aziende, ma anche tantissima gente comune. Esprimono solidarietà ai lavoratori di Varsila. Tra i presenti molti rischiano di rimanere a casa. Si tratta di giovani formati negli istituti tecnici, altamente specializzati, ma che difficilmente troveranno impieghi analoghi nel capoluogo, e che non vedono il turismo come un settore dove poter riqualificarsi. La deindustrializzazione della città non è una buona cosa, perché appunto ha tolto molti posti di lavoro da un certo punto di vista, e hanno aperti molti locali, molti bar, molti ristoranti che sono sicuramente dei posti di lavoro, ma non per tutti. La città, nonostante il caldo, nonostante il fumo, risponde, presente, aspetta all'ombra, è silenziosa, riesce comunque a farsi sentire. Tra le autorità presenti il vescovo di Trieste, Monsignor Crepaldi, che invita all'unità. Poi sono contento di essere qui in piazza con tutta questa gente, vuol dire che Trieste sta rispondendo bene ad una crisi che non si capisce, ingiustificata. In mezzo ci sono tante famiglie e tanti lavoratori, quindi dobbiamo essere particolarmente uniti. I rappresentanti dei lavoratori di CISL, UIL, CGL e anche USB nel frattempo escono dalla prefettura. Hanno portato al commissario di governo Vardè un documento ampio su demografia, giovani e sull'industria persa. Varsila, nelle loro parole, ridiventa grandi motori, come tutti continuano a chiamare lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Una scelta che non serve solo per gli applausi della piazza, ma proprio per provare a suggerire una soluzione, per quanto difficilmente praticabile. Fabio Canidisek, RSU CISL. bisogna che ci sia una coesione di interessi e che il governo faccia valere attraverso Cassa Depositi e Prestiti l'attrattività del nostro stabilimento. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E Trieste deve fare i conti anche con altre crisi, tra cui quella della Flex. L'atteso tavolo tecnico previsto per oggi non ci sarà e c'è anche la situazione critica della Principe Prosciuttifici, un pericoloso effetto domino che sta lasciando a casa centinaia di lavoratori. Sentiamo Antonio Rodà, segretario regionale della UILM. Il tavolo verrà rinviato di qualche giorno, in quanto l'azienda e il Ministero necessitano ancora di alcuni giorni per cercare di mettere a punto la prosecuzione del piano industriale. In questo rinvio c'entra qualcosa la crisi di governo? Questo non lo riteniamo, anche perché la notizia del rinvio era arrivata prima della crisi, insomma, delle dimissioni di Draghi. Tuttavia, quello che può incidere la crisi di governo è sicuramente rallentare e rendere più difficile il supporto delle istituzioni in ambito dei rapporti, ad esempio con Nokia, in ambito internazionale. Ha senso ragionare in termini di futuri scioperi, presidi o no? L'azienda di fatto ha cominciato a seguire il percorso indicato dal governo e quindi la possibilità di presentare dei progetti puntando su alcuni importanti attori delle telecomunicazioni del nostro paese, quindi cercando di sviluppare nel cercare di mantenere e conservare l'occupazione. Quindi fondamentalmente valuteremo l'efficacia, ecco, di questa azione. La zona industriale est di Trieste cade a pezzi, come la vedete voi? Una delle più grandi crisi del comparto industriale del nostro territorio. Con la questione di Flex, Varti e le Principe, se avranno la portata degli annunci, insomma, in termini di numeri di esuberi, noi rischiamo di fatto la chiusura del distretto industriale della nostra città. Qui sono a rischio 1200 posti di lavoro, un'ecatombe occupazionale che avrebbe riverberi sull'economia cittadina, insomma sul benessere complessivo del nostro territorio, che ci farebbe riportare in una situazione tanto tanto indietro. Quindi il rischio oggi è altissimo. E per questo, insomma, è importante che ci sia un coinvolgimento di tutta la cittadinanza, con uno scatto di orgoglio del territorio, della comunità, a difesa delle nostre fabbriche. Gli imprenditori vanno e vengono, ma le fabbriche devono rimanere. Mario Draghi si è dimesso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato lo scioglimento delle Camere. Si voterà il 25 settembre con il nuovo assetto dei collegi elettorali, che in regione saranno 3 per la Camera e 1 per il Senato. Il taglio dei parlamentari prevede in Friuli Venezia Giulia l'elezione tra un uninominale proporzionale di 4 senatori, da 7 che erano, e di 8 deputati rispetto ai 13 delle ultime elezioni. I commenti: Draghi e l'Italia sono state vittime in questi giorni del teatrino dei 5 Stelle, dei giochi di potere del PD. Secondo l'europarlamentare coordinatore regionale della Lega del Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto, Forza Italia in quest'anno e mezzo ha sostenuto lealmente il governo, ma ha deciso di interrompere questa esperienza ritenendo di non poter governare oltre con il Movimento 5 Stelle. Commenta così la deputata e coordinatrice di Forza Italia Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino. In controtendenza la senatrice forzista triestina Laura Stabile, che ha espresso fiducia a Draghi e dice: a volte gli interessi delle posizioni politiche sono incomprensibili. Sul fronte del Partito Democratico, la capogruppo alla Camera ed ex governatrice Deborah Serracchiani ribadisce: dare fiducia al governo Draghi corrispondeva a una richiesta venuta dal Paese. Chi ha negato questa fiducia ha votato contro l'Italia. Secondo il segretario regionale del PD Cristiano Sciaurli, ora si apre una stagione nuova, difficile, ma che si può giocare fino in fondo per il bene del Paese, senza perdere tempo dietro a campi larghi che non ci sono più. Costruire un'alternativa politica seria per l'Italia è invece la proposta del Movimento Azione di Carlo Calenda, che oggi a Trieste incontra la cittadinanza dalle 17 alle 19.30 in via San Lazzaro. Torniamo alla cronaca. Un gesto improvviso: il cane di casa la azzanna alla gola. È successo a Malnisio di Montereale Valcellina, ferita gravemente una donna di 79 anni che è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico a Pordenone. Due proprietari, marito e moglie, anziani di 79 anni, il cane, uno Staffordshire Bull Terrier di un anno. L'aggressione da parte del cane alla donna questa mattina, intorno alle 7, all'interno della loro abitazione a Malnisio di Montereale Valcellina. La donna è stata azzannata al collo. In suo soccorso è intervenuto il marito, che è riuscito ad allontanare l'animale e a chiamare i sanitari del 118. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Pordenone, l'anziana è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Ora è fuori pericolo. I carabinieri, che sono intervenuti su disposizione della procura di Pordenone, hanno affidato l'animale al canile di Villotta. Si sta cercando di capire perché il giovane cane si sia rivoltato contro la sua proprietaria. Forse la causa da ricercare in un gesto mal interpretato dall'animale. Il cane rimarrà ora sotto osservazione sanitaria per 10 giorni, quindi sarà visitato da un veterinario comportamentalista per una valutazione e poi per un percorso di riabilitazione. Se però l'animale sarà rinunciato dai proprietari, andrà a finire in un canile. La raccomandazione da parte degli esperti, quella di prendere cani con determinate caratteristiche ecologiche, muscolosi e da guardia, avendo specifiche competenze oppure facendosi aiutare da un educatore o un istruttore. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Blitz della polizia locale di Trieste ieri nella sede della società Calcestruzzi Trieste in via Herrera, nella zona industriale. Gli investigatori, su ordine della procura, hanno sequestrato alcuni documenti nell'ambito di un'indagine iniziata alcuni mesi fa sul corretto recupero di rifiuti speciali da trasformare in calcestruzzo. Nell'operazione è stata coinvolta anche la direzione distrettuale antimafia. Secondo l'accusa, i materiali di scarto non venivano opportunamente suddivisi ed inseriti nei macchinari per la trasformazione e quindi caricati direttamente sulle betoniere. Coinvolti nelle analisi del materiale anche i tecnici dell'ARPA. Si alza il sipario della 31esima edizione di Mittelfest, che fino a domenica 31 luglio trasforma Cividale del Friuli in un palcoscenico, teatro, danza, musica e tanto circo, con la tradizionale attenzione agli artisti dell'Est. 28 spettacoli da 15 paesi uniti dal tema scelto quest'anno, che è Imprevisti. La nostra intervista al direttore artistico di Mittelfest, Giacomo Pedini, che è anche regista dello spettacolo di questa sera. Parlo ringraziando i due straordinari interpreti che questa sera saliranno sul palcoscenico del Teatro di Storia di Cividale del Friuli, ossia Eva Luna Bretelli, attrice e acrobata, che porta sul suo corpo e nella sua voce il racconto, la storia di questo straordinario astrofisico che è stato Karl Schwarz, il padre, diciamo, di un'intuizione, quella sui buchi neri che tanto ha dato poi alla fisica del Novecento, e insieme a lei Michele Marco Rossi, che la segue musicalmente con delle bellissime esecuzioni da Paul Hindemith e da Hume all'interno di questa scena dominata da un grande cerchio di 4 metri che vortica e su cui Eva Luna Bretelli recita. Gli imprevisti sono il fil rouge di questo festival, possiamo dire che sono ormai la nostra nuova normalità? Gli imprevisti sono la condizione in realtà della normalità, sicuramente adesso ce ne stiamo accorgendo parecchio. Beniamin Labatut, l'autore dello spettacolo che porto in scena, dice che in fondo il caos va messo al centro della nostra comprensione e della nostra relazione col mondo. Questa credo che sia una questione importante, un bagno di umiltà nel ricordare che non si può controllare ciò di cui siamo parte, ma questo non significa che non si possa reagire bene e che non si possa tentare la sfida di indirizzare le nostre scelte e i nostri comportamenti. E poi non tutti gli imprevisti vengono per nuocere, perché ci sono gli imprevisti che vengono per far bene. A Trieste inizia la 22esima edizione del Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica Trischel al Boschetto del Ferdinandeo. Fino al 31 luglio concerti, animazioni e conferenze, ma anche focus su body painting e Harry Potter e poi i matrimoni e la lotteria celtica. Oggi l'apertura del festival alle 19, in serata i primi 2 concerti, alle 21 la band italiana Daridel, seguita alle 22.45 dal repertorio folk punk irlandese dei tedeschi Malasagners. In chiusura uno spettacolo di fuoco giocoleria. Per tutta la durata del festival nell'area del Ferdinandeo sono state disposte diverse modifiche alla viabilità. 7.47, siamo allo sport calcio. Prima sconfitta del ciclo di amichevoli precampionato dell'Udinese. Ieri in Austria, a Zemalsee, il Bayer Leverkusen si è imposto sui bianconeri per 2-1 al termine di un match in cui i friulani hanno dimostrato di essere all'altezza dei quotati avversari. I tedeschi si sono portati sul 2-0 grazie alle reti di Tapsoba e Paulinho, prima del punto bianconero messo a segno da Pereira su calcio di rigore. una prestazione soddisfacente, quella dei bianconeri di Mister Sottile, che ha dovuto fare a meno di Beto, Deulofeu e Aslan, oltre che di Molina, sempre più vicino all'Atletico Madrid e Wallace. Partita vera contro una grande squadra, molto più avanti di noi in termini di preparazione di alto livello, ha commentato l'allenatore dell'Udinese. Secondo Sottile era importante migliorare a livello tattico e caratteriale, bisogna ancora crescere, ma è emersa la voglia di migliorarsi. Domenica un nuovo test per l'Udinese contro il Qatar a Mittersil alle 17, gara che su disposizione delle autorità austriache si disputerà a porte chiuse per motivi di ordine pubblico. Scherma, Mara Navarria sale sul podio ai campionati del mondo, la spadista di Carlino in forza al gruppo sportivo dell'esercito ha conquistato la medaglia d'argento nella prova a squadra ai mondiali in corso al Cairo. Il quartetto azzurro, composto anche da Federica Isola, Alberta Santuccio e Rossella Fiammingo, si è fermato solamente in finale contro la squadra numero uno del ranking mondiale, la Corea. Le azzurre bissano così l'argento dei campionati europei di Antalya di fine giugno. Per Mara Navarria è la quarta medaglia in meno di un anno. 7.48, apriamo la nostra rassegna stampa, partiamo dal Gazzettino del Nord-Est. Il dramma della morte di Elena Del Duca è in prima pagina, albero eroso dal fuoco uccide una volontaria, coordinava la protezione civile a Prepotto, e questa è anche l'apertura delle pagine del Gazzettino dedicate al Friuli. Sotto la notizia del test del sangue per i donatori per il virus del Nilo, primo campanello di allarme in regione, si alza il livello dei controlli preventivi. Poi il calcio, nella fotografia a centropagina, Bayer è più avanti, l'Udinese regge, è finita 1-2 l'amichevole disputata in Austria. In taglio basso Johnny Depp, due giorni di relax nel resort friulano ex convento di Rivarotta di Pasiano. Anche il Messaggero Veneto apre con l'incidente che è costato la vita alla volontaria di protezione civile Del Duca. Gli incendi in Varresia, c'è l'intervista al comandante dei vigili del fuoco di Udine, Giorgio Basile, che fa un appello alla cittadinanza, segnalate tempestivamente i roghi. In taglio basso la notizia della morte di Giancarlo Sarti, gigante dei canestri, maestro alla Snaidero. Capocronaca di Udine del Messaggero, per l'emergenza idrica, autobotti nei comuni, invito a 6 sindaci a emanare ordinanze. La geologa del CAF dice... Kafk dice livello delle falde mai così basso a luglio, la situazione in città è sotto controllo, ma serve responsabilità. Il Piccolo di Trieste apre con la crisi industriale, 2000 in piazza per Varzi, la Principe Flex, siamo pronti allo sciopero generale, dicono i lavoratori con lo slogan Salviamo Trieste. E poi sempre in prima pagina l'incendio in Carso, allarme polveri anche in città, usate la FFP2, raccomanda il sindaco. Quindi il richiamo alla tragedia in Friuli, crolla un albero, muore volontaria di protezione civile, oltre naturalmente allo spazio dedicato alla crisi di governo e alle elezioni. Nelle pagine interne ancora gli effetti degli incendi in Carso, con un approfondimento sull'incubo di Medeazza, questo è il titolo, nella frazione di Duino segnalati di continuo nuovi focolai, per la paura è impossibile dormire, il paese ha però riscoperto il senso di comunità e c'è chi cucina per tutti i soccorritori. Ad aprire le cronache di Trieste l'annuncio degli spostamenti degli uffici della regione in Porto Vecchio. La giunta Fedriga, si legge, dà il via all'iter di trasferimento, ok a 11 milioni per il trasloco degli uffici e a ulteriori 10,5 per l'antico scalo, confermata la rinuncia alla cittadella Green Sesam, passaggio di proprietà a ottobre. La prima pagina del Messaggero Veneto, edizione di Pordenone, è uguale a quella del Friuli, travolta da un albero mentre spegne le fiamme, è il titolo principale. La notizia della cronaca cittadina, la più importante, arriva dal consorzio di bonifica Cellina Meduna. Dopo la siccità, i furti dell'acqua aumentano, i prelievi abusivi, multe in arrivo, ma 8 guardie devono controllare 25.000 ettari. Muoiono le trote, niente pesca solidale. Sotto c'è l'intervista a Fabio Santin, il nuovo capo di Idrogea, che dice priorità al depuratore e a contenere le perdite. Passiamo al Gazzettino, il dorso di Pordenone apre con il test ai donatori di sangue per il virus del Nilo, individuate alcune zanzare infette nella bassa pordenonese, per ora non ci sono casi, ma l'allerta resta alta. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo apre la prima pagina con la situazione dell'incendio in Carso. Senza tregua il titolo, continua la lotta contro le fiamme. La 4 riapre, il vallone resta chiuso, treni ancora fermi. Un richiamo anche al fronte sloveno sotto pressione, 1100 pompieri in azione per domare il rogo. E poi resta l'allarme polveri da Ronchi a Monfalcone. Stop a Fincantieri, la situazione a Iamiano, spettrale, con le case vuote, annerite, le lapidi del cimitero. Le cronache di Gorizia aprono con l'approvazione al secondo tentativo in Consiglio Comunale del regolamento sulla tassa rifiuti. Passa la Tari in Consiglio senza sgambetti, è il titolo del richiamo in prima pagina. Il capocronaca di Monfalcone è invece dedicato agli spazi per i giovani. Dopo 2 mesi di attesa si è aperto il BMX Park, l'impianto all'area verde di Via Valentinis, progettato dall'architetto Fabbro e dedicato solo alle 2 ruote. In previsione la sistemazione dei marciapiedi. E la notizia della morte di Elena Dal Duca è su tutti i quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera le dedica pagina 21. L'agente Elena, la volontaria nella lotta ai roghi, uccisa da un albero. Ne parla anche la Repubblica, pagina 27. Il caldo soffoca 16 città, leggiamo nel titolo. E nel Carso che brucia muore una volontaria che fu premiata da Mattarella. Chiudiamo con ancora qualche appuntamento. Torna l'operetta al Teatro Rossetti di Trieste oggi e domani con la principessa della Ciarda, Sipario, alle 21. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il giornale Radio 1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio, cui seguirà il quotidiano appuntamento con Vueo Fevelin D. Alle 11.20 circa andrà in onda un tranquillo weekend da paura estate. I programmi regionali tornano poi alle 14. Sono le 7.54, si chiude qui questa prima edizione del giornale radio regionale redatta e condotta in studio da Francesca Terranova e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Viola Romanese e Corrado Spuntoni. In redazione ha collaborato Samantha Gon. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.